essere e avere. In studio con Essere e Avere era il 1968, i Beatles uscivano con White Album, in italiano si chiamò Doppio Bianco, primo ed unico album doppio dei Fab Four, copertina totalmente bianca con il nome del gruppo stampato semplicemente in rilievo, scelta stilistica dirompente in quegli anni di dominio assoluto del colore. Apriamo così il focus sui trend di questa settimana dedicato ai consumi in bianco. A guidarci nell'analisi c'è come sempre la nostra esperta Patrizia Martello di Memetic Club, docente di sociologia dei consumi e analisi delle tendenze alla nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno. Indicato da molti come il colore scaccia crisi, dalla tecnologia, Apple insegna, alla moda, passando per i negozi, Muji è stato il primo, fino ad arrivare alle banche. È il bianco il colore del momento, Patrizia. Ma il bianco ha molti significati e una ricchissima simbologia che sono culturalmente situati. Dunque, per fare un esempio, nella tradizione cinese, ma anche giapponese e indiana, è associato alla morte, mentre nei paesi occidentali ha un'associazione e valenze del tutto positive. Da noi, semplificando, bianco è buono, mentre nero è cattivo. Dunque, il bianco è carico di significati come innocenza, verità, purezza, bontà. Per fare un unico esempio che a che fare con l'immaginario, nei vecchi western i cowboy buoni hanno sempre un cappello bianco, lo stesso che metaforicamente per esempio indossano gli hacker buoni di oggi, che si chiamano non a caso white hat hacker. Ma vediamo, passando subito al mondo dei consumi, qualche caso interessante di penetrazione del bianco in questa scena. L'hai anticipato, Savasandir, il caso Apple, che ha di fatto portato il bianco nella tecnologia e nell'elettronica, creando anche negli altri settori, questo è il dato interessante, il cosiddetto effetto Apple, cioè la diffusione massiva di questo colore che è ritornato alla ribalta via via che i tecnooggetti o i tecnoesseri forse di Cupertino invadevano il mondo. Questo vale oggi in particolar modo per le automobili. Agli ultimi saloni, da Ginevra a Detroit, il bianco era prevalente e secondo gli esperti evolverà fino al beige, ma pare non oltre, anche per una questione tecnica, cioè il riflesso dei raggi solari delle vernici chiare che rendono le auto bianche più verdi, perché banalmente si usa meno il condizionatore.